Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Gentili ascoltatori, dalla Sura del Limbo ascolteremo ora i versetti 54 e 55 dalla voce del fratello Burumand. Seguirà la traduzione in lingua italiana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم. Il vostro Signore è Allah, colui che in sei giorni ha creato i cieli e la terra e poi si è assiso sul trono. Egli fa che la notte segua il giorno e lo copra col suo velo. Il sole, la luna e le stelle sono sottomessi ai suoi comandi. Non è a lui che appartengono la creazione e l'ordine? La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Invocate il vostro Signore umilmente e nel segreto del vostro cuore. Egli in verità non ama i superbi ed i trasgressori. Gentili ascoltatori, vi informiamo che i programmi in lingua italiana della Repubblica Islamica dell'Iran vengono trasmessi in onde corte giornalmente dalle 6.30 alle 7.30 ora di Greenwich sulle seguenti frequenze: 15.480 kHz pari a 19 metri e 17.660 kHz pari a 16 metri. La replica di questa trasmissione va in onda il pomeriggio dalle 12 alle 13 ore di Greenwich sul satellite Intelsat 902 e può essere ascoltato anche attraverso il sito internet italian.irib.ir, come del resto tutte le altre trasmissioni. Infine il programma serale va in onda su onde corte dalle 19.30 alle 20 di Greenwich sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz pari a 41 metri e 9.755 kHz pari a 31 metri. Questo programma è stato ideato per l'Italia e per l'Europa centro-occidentale. In nome di Dio, il clemente e il misericordioso, salve cari amici, vi parla Sahel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Insieme alla mia collega Shima vi presenteremo la programmazione di oggi sabato 11 maggio 2013, che prevede in apertura il radiogiornale accompagnato da una breve nota di commento. Poi sarà la volta della rassegna stampa, che farà seguito dall'intervista realizzata dalla nostra collega Leila con giornalista italiano Leonardo Mazzei sulla visita del segretario di Stato americano Kerry a Roma. Per finire di questa edizione del mattino di Radio Italia vi presenteremo altri due programmi, Il Sentiero della Luce e Il Cinema Iraniano. Ma per ora vi chiediamo di seguirci con il radiogiornale. A tra poco. Iran alla vigilia delle presidenziali, oltre 360 candidati registrati, tra loro 12 donne. Ambasciatore USA attraversa di nascosto i confini siriani e incontra i ribelli. Ancora Siria, ONU imporrà sanzioni al gruppo terroristico fronte al Nusra. Russia completerà fornitura S-13 e la Siria niente nuove forniture missili. E Afghanistan, Merkel, truppe della Germania resteranno oltre il 2014. Ieri a Teheran oltre 360 aspiranti, tra loro anche 12 donne, alla presidenza iraniana hanno registrato la loro candidatura. Finora alle undicesime presidenziali del paese, che si terranno il prossimo 14 giugno, lo riferisce Press TV. La registrazione, iniziata il 7 maggio, si chiuderà oggi sabato. Secondo la Costituzione iraniana, i candidati alle presidenziali devono essere figure religiose o politiche, devono essere di origine iraniana, cioè avere la cittadinanza iraniana, devono essere dotati di intraprendenza e capacità manageriali, non avere precedenti penali, devono essere fedeli ai principi fondamentali della Repubblica Islamica dell'Iran e della religione ufficiale del paese, cioè Islam. L'ambasciatore USA in Siria, attraversando di nascosto i confini della Siria, ha incontrato i leader dei gruppi ribelli che combattono contro il governo legittimo del presidente Bashar Assad, lo ha riferito la Press TV. Un comandante militare dei ribelli siriani ha detto ieri all'AFP di aver incontrato l'ambasciatore americano incaricato del dossier siriano, Robert Ford, alla frontiera tra la Siria e la Turchia. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato a Washington che Ford ha fatto una breve incursione in territorio siriano per incontrare il capo di Stato Maggiore del cosiddetto Esercito Libero Siriano, il generale Selim Idris, e il colonnello Abdel Jabbar al-Okaidi, che comanda l'esercito ribelle ad Aleppo, nel nord della Siria. Robert Ford si è recato al valico di frontiera di Bab al-Salameh e ha detto uno dei portavoci della diplomazia americana, Patrick Ventrell. Il fronte al-Nusra, gruppo estremista siriana impegnata nel conflitto contro il governo del presidente Bashar Assad, un gruppo legato ad Al-Qaeda, sarà presto inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A darne la notizia, fonti diplomatiche sotto anonimato. Su richiesta di Francia e Gran Bretagna, da martedì prossimo saranno applicate sanzioni contro questo gruppo, hanno riferito ancora le fonti citate da AFP. Mosca non ha intenzione di vendere nuovi sistemi di difesa antiaerea S-13 a Damasco, ma sta completando la fornitura di quelli previsti da contratti precedenti e che non sono banditi dalle norme internazionali in quanto sono armi difensive. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia non ha intenzione di vendere S-13, sono già stati venduti tempo fa ed ora sta completando la fornitura in base a precedenti contratti di sistemi di difesa aerea. Cambiamo pagina. Visita sorpresa di Angela Merkel in Afghanistan. La cancelleria tedesca, accompagnata dal ministro della difesa tedesco Thomas de Maizière, ha ribadito la volontà di lasciare un contingente nel paese asiatico dopo il 2014, quando finirà la missione ISAF. Tra i 600 e gli 800 militari tedeschi dovrebbero restare fino al 2017 per formare e consigliare le forze locali. Ci sono luoghi dove la sicurezza non è ancora garantita, dobbiamo dispiegare militari tedeschi e ovviamente i loro colleghi afghani, ha aggiunto Merkel. La Germania conta su 4.200 militari che rappresentano il terzo contingente più numeroso tra le truppe della NATO in Afghanistan. La decisione finale sulla permanenza dei militari tedeschi sarà presa comunque dal governo che uscirà dalle elezioni di settembre. Il viaggio della cancelleria tedesca in Afghanistan è stato considerato irrispettoso dal governo afghano, che non ne sarebbe stato informato. L'attentato è avvenuto presso una moschea a 55 km a sud di Baghdad, capitale dell'Iraq, comunica venerdì l'agenzia Associated Press. Tre persone sono morte, altre sette sono rimaste ferite. La bomba è stata attivata quando le persone uscivano dalla moschea dopo la tradizionale preghiera del venerdì. La NATO viola gli impegni precedenti perché l'infrastruttura militare dell'agenzia si sposta realmente verso Oriente, ha dichiarato il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov. Tali azioni provocano sempre domande, ha affermato Lavrov, aggiungendo che la Russia e la Bielorussia da sempre difendono i propri confini. La squadra delle navi russe da combattimento e le navi appoggio della flotta del Baltico è entrata in visita di lavoro nel porto greco del Pireo, comunica l'ufficio stampa della flotta del Baltico. Fino al 12 maggio la squadra delle navi deve reintegrare le scorte di acqua e di viveri. In questo periodo i membri degli equipaggi avranno la possibilità di riposare e vedere i monumenti storici di Pireo e Atene. Dopo la visita la squadra continuerà ad eseguire i compiti insieme al gruppo delle navi della Marina Militare Russa nel Mediterraneo. Il tribunale del Guatemala ha condannato ieri l'ex dittatore Rios Montt a 80 anni di carcere, 50 anni per genocidio e 30 anni per delitti di lesa umanità. Il tribunale, nel suo verdetto, ha ordinato l'immediata detenzione dell'ex dittatore, che fino ad oggi godeva di arresto domiciliari come misura sostitutiva. Dal passato 19 marzo, questa magistratura ha portato a termine il dibattito orale e pubblico che è stato ritardato per ricorsi interposti dagli avvocati difensori. Rios Montt, insieme al suo antico capo di intelligenza José Rodríguez, che è stato assolto, erano stati segnalati dal pubblico ministero come gli autori intellettuali dell'assassinio di 1771 indigeni durante il regime diretto dal primo, dal marzo del 1982 ad agosto del 1983. Lo spinoso problema dei licenziamenti nel settore pubblico, una delle questioni considerate indispensabili dai rappresentanti della Troica per il proseguimento dell'aiuto finanziario alla Grecia, continua a tenere sotto pressione il governo. Entro la fine di maggio devono infatti essere messi in congedo dal settore pubblico i primi 2.000 dipendenti e il governo è ancora in cerca degli enti statali nei quali effettuare tagli di personale. Il presidente americano Barack Obama sarà a Berlino per una visita ufficiale il 18 e il 19 giugno, lo ha annunciato il vice portavoce del governo tedesco Georg Streiter. La prima visita di Obama nella capitale tedesca dal suo arrivo alla Casa Bianca si terrà in seguito all'invito rivoltogli da Angela Merkel all'indomani, subito dopo la sua rielezione nel novembre scorso. L'ultima volta che Obama aveva visitato Berlino era stato nel luglio 2008, quando era ancora candidato alla Casa Bianca. Il 10 maggio si è conclusa la conferenza africana del 23° Forum Economico Mondiale, durante la quale ha invitato ai paesi africani di impegnarsi per liberarsi il più possibile dalla dipendenza del sostegno estero, realizzando con pieni sforzi il rinascimento dell'Africa. Il tema dell'attuale conferenza è realizzare la promessa africana, finalizzata alla promozione della crescita economica africana, all'accelerazione della costruzione delle infrastrutture strategiche dell'Africa e all'apertura verso la formazione dei talenti africani. È stata l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'attenzione. A tra poco con il commento di oggi. Pakistan è il test delle elezioni. A pochi giorni da un delicatissimo voto per il rinnovo del Parlamento, il Pakistan continua a vivere le ultime battute di campagna elettorale in un clima di violenza diffusa e di crisi interna crescente. Alle bombe dei talebani e dei gruppi proprio terroristici attivi al confine con l'Afghanistan si è da qualche settimana aggiunta la vicenda dell'ex dittatore Parviz Musharraf, la cui detenzione dopo il ritorno in patria rischia di alimentare le tensioni nel paese e lo scontro tra la società civile da un lato e i potenti vertici militari dall'altro. In poco più di un mese il bilancio degli attentati condotti contro candidati nelle elezioni di sabato prossimo ha superato le 100 vittime, con un ulteriore aggravarsi della violenza negli ultimi giorni. Ad essere presi di mira sono prevalentemente i tre partiti di ispirazione secolare che formano la coalizione di governo uscente, il Partito Nazionale Awami ANP e il Partito Popolare Pakistano PPP del presidente Asif Ali Zardari, anche se recentemente le bombe hanno iniziato a colpire candidati e partiti religiosi. Comizi elettorali del partito Jamaat-e Ulama-e Islam nelle giornate di lunedì e martedì scorsi sono stati infatti sconvolti da esplosioni che hanno provocato una trentina di morti, tra i sostenitori accorsi per ascoltare gli interventi dei loro candidati. Quasi sempre gli attentati sono stati rivendicati dai talebani pakistani, Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP, i quali intendono colpire soprattutto i partiti di governo, accusati di aver fornito il loro appoggio alla campagna militare degli Stati Uniti in Afghanistan e nelle aree tribali nord-occidentali del Pakistan. Anche le più recenti operazioni contro il partito fondamentalista Jamaat Ulema-e Islam, tuttavia, sono state rivendicate dagli stessi talebani, poiché il suo leader Fazlur Rahman e alcuni candidati si sarebbero venduti all'imperialismo americano. In gran parte risparmiati sono stati invece finora i due partiti conservatori favoriti, la Lega Musulmana del Pakistan, PML, dell'ex premier Nawaz Sharif, e il Movimento Pakistano per la Giustizia, Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTE, dell'ex stella del cricket Imran Khan, protagonista martedì di una grave caduta durante un comizio a Lahore, in seguito alla quale ha riportato una serie di fratture. Sfruttando l'ostilità diffusa nel paese per i metodi della guerra al terrore, fra virgolette, degli Stati Uniti, queste due formazioni politiche, almeno esteriormente, hanno tenuto posizioni critiche nei confronti sia degli Stati Uniti che delle campagne militari promosse dal governo per combattere gruppi come quelli dei Tahrik, dei talebani, chiedendo allo stesso tempo un qualche dialogo con quest'ultimi. Proprio Nawaz Sharif viene indicato come il più probabile prossimo primo ministro pakistano dopo aver già occupato questa carica in due occasioni, tra il 1990 e il 1993 e tra il 1997 e l'ottobre del 1999, quando venne deposto dal colpo di stato militare che portò al potere il generale Musharraf. Secondo un sondaggio condotto nel mese di marzo e pubblicato solo mercoledì scorso dal quotidiano pakistano Dawn su scala nazionale, il partito di Nawaz PML sarebbe accreditato di quasi il 26% dei consensi contro il 25% per il PTE di Imran Khan. Più staccato appare il PPP al potere con meno del 18% delle preferenze a fronte di oltre il 30% fatto registrare nelle elezioni del 2008. In particolare nella provincia più popolosa del Pakistan, il Punjab, dove vengono assegnati più della metà dei seggi dell'Assemblea nazionale, il PPP potrebbe fermarsi, secondo lo stesso sondaggio, al 14%, mentre il PMLN avrebbe un vantaggio di oltre 8 punti percentuali sul PTE. Per la maggior parte degli analisti, i risultati del voto di sabato non dovrebbero decretare un chiaro vincitore, rendendo perciò necessaria la formazione di un altro governo di coalizione. Il più che probabile tracollo del Partito Popolare Pakistan del presidente Zardari indica un diffuso malcontento tra la popolazione per le politiche messe in atto in questi 5 anni, sia sul fronte economico che della sicurezza interna. Per cominciare, nonostante le critiche espresse a livello ufficiale nei confronti della guerra condotta con i droni degli Stati Uniti nelle regioni al confine con l'Afghanistan, che ha causato centinaia di vittime civili, il governo di Islamabad ha in realtà assecondato dietro le quinte la campagna di Washington, da cui dipende molto finanziariamente. Di questa situazione, sia economica che politica, del Pakistan alla vigilia delle elezioni politiche, vi parleremo ancora sia nel ambito delle notizie che dei commenti, ma per ora il tempo a nostra disposizione è terminato. A tra poco. Salve cari amici, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, sabato 11 maggio 2013. Partiamo subito dal giornale Re Salate. Pyongyang ha condannato il viaggio, il prossimo viaggio, meglio dire, del presidente sudcoreano a Washington, definendo questa decisione una provocazione nei confronti della Corea del Nord. Tutto ciò mentre una nave da guerra americana, USS Nimitz, è proprio in rotta verso le coste sudcoreane. Intanto aprire un nuovo fronte di guerra proprio nelle alture del Golan ha fatto molto preoccupare il regime israeliano. La decisione è stata presa dal presidente siriano, appunto, Bashar Assad, un fronte di guerra che mira a dare sostegno e assistenza a tutti i combattenti della resistenza islamica antisionista e per in segno di solidarietà con gli abitanti di queste zone. Sappiamo che una parte delle alture del Golan è stata occupata appunto dal regime sionista. Intanto un gruppo formato da quattro forze delle Nazioni Unite di nazionalità filippina sono stati proprio sequestrati dai ribelli antigovernativi in Siria e, secondo gli ultimi dispacci pervenuti, sono stati trasferiti appunto nella parte occupata del Golan sotto l'occupazione israeliana. Passiamo al giornale Jom Jam, ancora in Siria. È una unità speciale dell'esercito siriano, è stato incaricato responsabile per garantire la sicurezza dei luoghi sacri sciiti, soprattutto il sacro mausoleo della Santa Zainab, una delle sacre discendenti del profeta dell'Islam. La decisione arriva dopo proprio l'assalto e la demolizione di un luogo sacro sciita da parte dei ribelli antigovernativi in questo paese. Passiamo al giornale Shahri. In Spagna, migliaia di studenti insieme ai loro genitori hanno protestato appunto in due città spagnole, Madrid e Barcellona, proprio protestare le decisioni economiche del governo spagnolo. Intanto, secondo le ultime informazioni, il 65% dei giovani spagnoli sta cercando per il lavoro e per questo sta pensando al proprio immigrazione. La meta della maggior parte dei giovani spagnoli è la Germania. Passiamo al giornale Iran. Presidente afghano Hamid Karzai, il Pentagono costruirà 9 basi militari in Afghanistan dopo dopo il 2014, la data del ritiro delle truppe straniere da questo paese. Giornale Hamshahri. In Pakistan, uomini armati, probabilmente affiliati ai talebani, hanno sequestrato, rapito Ali Haidar Gilani, figlio del ex premier Yousef Reza Gilani. L'ondata del terrorismo, insieme a questi sequestri di persone, mirano a destabilizzare il paese alla vigilia dell'importantissimo test elettorale. Soltanto negli ultimi 10 giorni almeno 100 persone hanno perso la vita in Pakistan, un bilancio veramente tragico. E poi in Egitto ieri una mega manifestazione da parte del popolo musulmano egiziano per condannare l'assalto criminale dei soldati israeliani alla moschea di Al-Aqsa in Gerusalemme occupata. in Cile, scontri tra studenti e polizia. Ma passiamo al giornale Keihan per una notizia importante. Il Congresso americano ha ammesso appunto il fallimento delle sanzioni, della politica di sanzioni contro l'Iran. Jumhuriyet Islami, questo giornale, ha pubblicato il discorso del segretario generale dell'Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, importantissimo. Durante il suo discorso ha toccato diverse questioni, ma forse il più importante era proprio quando il leader libanese Nasrallah ha parlato dell'attacco israeliano contro la Siria, dicendo che la resistenza è pronta a dare una mano alla Siria di appunto porre fine all'occupazione israeliana sulle alture del Golan. E poi Nasrallah ha ammesso che riceve dalla Siria armamenti, sottolineando che in un prossimo futuro riceverà armi fino ad ora mai ricevute, e questi armamenti potranno anche cambiare equilibrio nella regione. Un duro monito da parte del segretario generale dell'Hezbollah al regime israeliano. Nasrallah ha anche criticato duramente i governi arabi per la loro decisione sulla Palestina. Il fatto che molti governi arabi, soprattutto il Qatar, si sono ritirati dalle posizioni precedenti sulla questione palestinese e si sono detti pronti a riconciliare con Israele, per Nasrallah è inaccettabile e vuol dire un tradimento proprio al popolo arabo e al popolo palestinese. È tutta per la nostra rassegna stampa di oggi, grazie per l'attenzione. A risentirci. Siamo in collegamento telefonico con il signor Leonardo Mazzei, portavoce del Comitato Gaza Vivrà e membro del campo antiimperialista. Signora Mazzei, innanzitutto noi la ringraziamo per la sua gentilezza e il tempo che ci sta per concedere e cominciamo la nostra intervista con la prima domanda. Bene, grazie a voi. Signor Mazzei, sembra che non ci sarà alcun rappresentante dell'autorità nazionale palestinese al cosiddetto nuovo round di incontri sul rilancio del negoziato israelo-palestinese che si svolge a Roma tra il segretario di Stato USA John Kerry e Tzipi Livni, ministro israeliano e coordinatrice delle trattative con i palestinesi. E il suo parere in merito qual è? Ma mi sembra chiaro che in questo momento non c'è nessun processo di pace reale. Processo di pace dovrebbe presupporre molte cose. Invece noi sappiamo che da parte israeliana non c'è nessuna intenzione di aprire una vera trattativa. Per cui l'impressione è che si assista, diciamo, a una di quelle solite mosse che vuole accreditare appunto una generica volontà di pace, ma senza niente di concreto, perlomeno questa è l'impressione. Signor Mazzei, il suo parere per quanto riguarda la posizione del nuovo governo italiano sulla questione palestinese, qual è? Beh, io sono molto pessimista, perché noi sappiamo come governi di questo tipo siano totalmente filoatlantici e anche molto allineati su una posizione filosionista. Mi riferisco al precedente governo Monti, ma credo che col governo Letta non ci siano veri cambiamenti. Tra l'altro abbiamo questa figura di Emma Bonino al Ministero degli Esteri, che è una figura molto, ma molto negativa. Insomma, si tratta di una signora che rappresenterà l'Italia nel mondo sventolando con la mano destra la bandiera americana e con la mano sinistra quella israeliana. La posizione, diciamo, di politica internazionale dell'Italia, di questo governo la capiremo andando più avanti, naturalmente. però la nomina della signora Bonino al ministro degli esteri è molto negativa, quindi non mi aspetto, diciamo, nessuna apertura, nessun cambiamento rispetto alle politiche dei governi precedenti, sia del governo Berlusconi che del governo Monti. Insomma, Zay, il segretario di Stato americano John Kerry sembra che vi farà, avrà un incontro anche con il signor Letta e il ministro degli esteri italiano. Sembra che, oltre ad essere un'occasione per incontrare i rappresentanti del nuovo governo italiano, la visita di Kerry a Roma si concentrerà anche sulla questione siriana. E per quanto riguarda questo tema, come vede l'esito di questo incontro? Diciamo che al momento risulta una presa di posizione del ministro Bonino, una posizione espressa a Londra, che è molto equivoca, nel senso che la signora Bonino ha detto che per il momento si deve ricercare una soluzione politica e che per il momento non ci sono in vista soluzioni militari. Ora, il fatto pericoloso che io voglio sottolineare è questo riferimento a per il momento, quindi se uno dice per il momento si deve intendere che magari tra un mese, due mesi o sei mesi invece la soluzione militare potrebbe anche essere scelta. Mi sembra che la posizione italiana sostanzialmente sia questa. In questo momento, diciamo, non è che l'Italia abbia una propria politica estera ben delineata, con elementi di differenza sostanziali rispetto agli Stati Uniti, al blocco della NATO e, diciamo, ai più importanti paesi dell'Unione Europea. E noi sappiamo che sulla questione siriana sono particolarmente attivi la Francia e la Gran Bretagna. Al momento, ecco, il governo Letta è insediato da pochi giorni e l'unica posizione espressa in termini, nei termini che dicevo prima, è questa. È una posizione equivoca e che potrebbe rivelarsi in futuro molto pericolosa, qualora la situazione dovesse precipitare e dovesse portare ad un intervento militare in Siria. Insomma, Zay, Radio Italia la ringrazia per il tempo dedicato a nostra disposizione. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, signor Mazzai, e buona giornata anche a lei. القرآن نور يضيء القلب والروح حقا Sentiero della luce. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso, un caloroso saluto a tutti voi, amici ascoltatori, dalla nostra terra lontana. È con immenso piacere che oggi vi presentiamo un'altra puntata della serie Il Sentiero della Luce, dedicata alla lettura e all'interpretazione semplice dei versetti del Corano, il testo sacro dell'Islam. A tra poco. Prosegue su Radio Italia IRIB la lettura e l'interpretazione del Corano, il testo sacro di oltre 1 miliardo di musulmani in tutto il mondo. Abbiamo iniziato da mesi la lettura della 20ª sura o del 20° brano della Sacra Scrittura intitolato Taha, che secondo gli esegeti sarebbe uno degli appellativi del profeta Muhammad, la pace di Dio sia su di lui e sulla sua immacolata famiglia. Riprendiamo la nostra lettura da dove eravamo rimasti, ovvero dal versetto numero 127. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Compensiamo così chi eccede e non crede ai segni del suo Signore. In verità, il castigo dell'altra vita è più severo e durevole. Nei versetti precedenti, letti la puntata scorsa, abbiamo parlato di una delle tradizioni divine, quella di punire in questa e nell'altra vita le persone che dimenticano Dio e i suoi segni. Questo versetto conferma e ribadisce il contenuto di quelli precedenti e descrive i peccatori come coloro che eccedono, che non sanno mantenere l'equilibrio. Loro usano in maniera errata ciò che viene donato loro dal Signore. Nell'altra vita verranno castigati dal fuoco dell'inferno, una punizione molto dura che andrà avanti all'infinito. Da questo versetto apprendiamo che per primo il peccato è un tipo di eccesso e l'uso inequilibrato dei doni concessi noi dal Signore non è conforme alla fede del Dio unico. E secondo, quando dobbiamo compiere delle azioni dobbiamo dare maggiore peso all'effetto di queste nell'altra vita che al vantaggio che ci possono dare in questa. Ed ora leggiamo i versetti 128 e 129. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ Non è servito loro da lezione come facemmo perire le generazioni, nelle cui dimore oggi vanno e vengono. In verità in ciò vi sono certo segni per coloro che hanno intelletto. Se non fosse stato per una precedente parola del tuo Signore e per un termine già stabilito, già tutto questo sarebbe avvenuto. Questi versetti si riferiscono ai miscredenti e ai peccatori che al tempo del profeta dell'Islam popolavano la Mecca. Il Corano invita loro ad osservare per bene le case distrutte del popolo degli Ad in Yemen o quelle del Tamud e del popolo di Lot nelle loro visite in Mesopotamia. Per il Corano le rovine delle case di quei popoli del passato è un altolà alla gente del presente circa l'effetto che l'ingiustizia può avere. Il seguito del versetto ricorda che la tradizione di Dio è dare tempo ai peccatori in modo che abbiamo la possibilità di riflettere e rinunciare al proprio fare ingiusto. Il tempo dato però non è mai infinito e c'è sempre una fine per esso. Dio non castiga nessuno prima che tale periodo di tempo si concluda, un periodo da egli stesso prestabilito. Da questi versetti apprendiamo che per primo è degno di biasimo chiunque non trae la giusta lezione del fare della gente del passato e del loro destino. Secondo, quando la gente osserva i reperti archeologici non deve solo perdersi negli aspetti mondani, ma deve anche riflettere e cercare di prendere le giuste lezioni dal passato dei popoli. Terzo, i peccatori e gli ingiusti non devono credere di essere riusciti ad ingannare o sconfiggere Dio, se non vengono puniti subito per le loro azioni inique. Dio punirà i peccatori dopo che terminerà il tempo concesso loro per pentirsi. Ed ora il versetto numero 130 della Sura di Taha. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Sopporta dunque con pazienza quello che dicono glorifica e loda il tuo Signore prima di levarsi dal sole e prima che tramonti. Glorificalo durante la notte e gli estremi del giorno, così che tu possa essere soddisfatto. Questo versetto rincuora ed incoraggia il nobile profeta dell'Islam che veniva tempestato di accuse da parte dei miscredenti della Mecca. Il versetto invita il profeta ad essere parsimonioso, visto che, come detto in precedenza, Dio non avrebbe castigato subito quei miscredenti, ma dopo un periodo di tempo dato loro per potersi pentire. Il Corano invita il profeta ad affidarsi a Dio e a rifugiarsi nella preghiera per poter svolgere il suo irto compito. Da questo versetto possiamo prendere alcuni concetti. Primo, i fedeli devono essere forti e resistenti dinanzi alle parole degli oppositori e non devono lasciarsi intimidire. Secondo, effettuare l'orazione e lodare il Signore è uno strumento che rafforza lo spirito e la resistenza dell'uomo, soprattutto dinanzi alla propaganda ed all'ostinazione del nemico. Terzo, la sera non serve solo per riposarsi e dormire, bisogna dedicare parte di essa alla preghiera ed all'orazione. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione e ricordiamo che potete trovare il testo di questo programma sul nostro sito islamico italian.iri.ir Radio Islam e vi ricordiamo che c'è pure una pagina su Facebook intitolata IRIB Radio Islam dove troverete anche i testi di questo programma. Grazie ancora e che Dio vi protegga. Cinema iraniano. L'Iran da anni è la prima industria cinematografica del Medio Oriente. In Asia è seconda, dopo a quella dell'India e la settima del mondo intero. Noi da qualche settimana abbiamo iniziato con una singolare e nuovissima trasmissione su Radio Italia IRIB che vi presenta il cinema dell'Iran, che ha dimostrato nel corso degli ultimi decenni la sua classe e il suo fascino, soprattutto perché è in grado di guardare la realtà da un'angolatura del tutto nuovo. A tra poco. La settimana scorsa abbiamo iniziato il racconto sulle storie del cinema in Iran ed ora proseguiamo tale discorso. Negli anni 40, dopo l'occupazione dell'Iran ad opera degli alleati, i sovietici iniziarono ad occupare le sale dei cinema sia a Teheran che in altre città dell'Iran. Uno dei proprietari di cinema di quell'epoca racconta: dopo l'occupazione dell'Iran tramite gli alleati, i russi presero di mira direttamente i cinema e, pretendendo tasse pesantissime, divennero di fatto i nuovi padroni del cinema iraniano. Loro, con la proiezione di film e notiziari russi, facevano pubblicità al comunismo e alle loro idee in Iran. Inviavano anche i loro attori di teatro, gruppi da opera ed orchestre a Teheran e in altre grandi città come Azerbaijan, Khorasan e Gilan. Per indottrinare la gente, annunciavano che l'ingresso ai loro spettacoli era gratuito e di solito invitavano diversi gruppi a vedere questi spettacoli. In questo periodo gli inglesi si comportarono in maniera leggermente differente. Loro, come primo passo, fondarono l'Accademia Culturale Iran-Inghilterra e poi cominciarono a tradurre film, notiziari e documentari di guerra. Loro pubblicavano anche giornali sul cinema ed i film. Questa rivalità tra i governi stranieri in Iran nell'uso strumentale del cinema distrutto ciò che si era formato come cinema nazionale iraniano. Nel 1948 esce comunque in Iran il primo film parlante intitolato Tempesta della vita, prodotto da Ismail Kushan, creato della Misa Film Company e diretto dall'attore teatrale Ali Dario Beghi. Questo film non ebbe successo e, seguito da altri insuccessi, portò la Misa Film Company al fallimento. Nel 1950 viene fondata la Iran Film Studio da Qadiri e Manoucheri, società che produce i primi film girati in Iran che conquistarono i favori del pubblico. I primi due successi sono Vergogno e Vagabondo. Inizia così un'epoca prospera per l'industria del cinema iraniano che nel 1965 raggiunge la produzione di 500 film ed in seguito va costantemente sviluppandosi. Negli anni tra il 1952 e 1968 vengono fondati 58 studi cinematografici e 124 nuovi registi iniziano a lavorare in questo campo. Negli anni 60 iniziano ad emergere i primi tratti distintivi del linguaggio cinematografico iraniano. Comincia la prima novella vague, ovvero la prima generazione di cineasti. Le prime fasi della novella vague iraniana vede registi che subito destano l'attenzione dei critici di essay internazionali. Tuttavia, i film realizzati in Iran in questo periodo rappresentano una minima parte rispetto alla produzione complessiva. A dominare il mercato sono ancora film commerciali e stranieri. Nel 1979 la produzione comincia a ridursi. La situazione comincia a stabilizzarsi nel decennio successivo alla rivoluzione iraniana, mentre l'industria cinematografica non riesce a risollevarsi. Nel 1983 il governo prende alcuni provvedimenti per risollevare l'industria. In particolare, i provvedimenti mirano ad incrementare la produzione e a frenare l'importazione di pellicole straniere. A tale scopo viene creata la Fondazione Farabi, che fornisce sussidi per la produzione cinematografica iraniana. Negli anni successivi la produzione aumenta. Tra gli autori di rilievo e spicca, Dariush Mehrjoui, laureatosi in filosofia negli Stati Uniti, si fece notare sia in patria sia all'estero, vincendo il premio Fipresci alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1970 con La Vacca, sceneggiato con la collaborazione del noto scrittore iraniano Gholam Hossein Saidi. Dramma rurale dedicato dalla dura vita di un contadino che vede morire una vacca, sua unica fonte di sostentamento. Fiorire di autori e opere legati al movimento della novella vague, che coincise con il periodo di maggiore sviluppo dell'industria cinematografica nazionale, rappresentò tuttavia un fenomeno marginale nell'ambito della produzione iraniana, la quale rimaneva per il resto dominata da film di genere destinati a un pubblico popolare. Ma l'inflazione galoppante che gravava sul paese non mancò di far sentire i suoi effetti negativi anche sull'industria cinematografica, che già a partire dal 1976 iniziò a mostrare seri segni di crisi, diminuendo drasticamente la produzione a favore di un nuovo incremento della distribuzione di film stranieri. La situazione non migliorò negli anni seguenti, che videro anzi gli schermi iraniani sempre più invasi da film stranieri, soprattutto statunitensi. L'infiammarsi della rivolta popolare contro il regime dello Shah e la rivoluzione del 1979, che portò l'Iran a divenire una repubblica islamica guidata da Ayatollah Khomeini, ebbero influenze anche sul cinema, che vide cambiare le prospettive produttive. Amici, continueremo la prossima settimana il resto del racconto. Per ora vi salutiamo. In conclusione vi annunciamo ancora una volta i titoli principali del nostro radiogiornale. Erano le elezioni presidenziali, oltre 360 candidati registrati fino ad ora, tra loro anche 12 donne. Ambasciatore americano attraversa proprio di nascosto i confini della Siria, incontra i ribelli antigovernativi in questo paese. ONU imporrà sanzioni al gruppo terroristico fronte all'Nusra. Ancora Siria, Mosca completerà fornitura proprio dei sistemi di difesa antiaerea S-300. Niente nuove forniture di armi. Afghanistan, Merkel, Germania resterà oltre il 2014. In questo paese, attentato a Baghdad, capitale dell'Iraq, 3 morti e 7 feriti. Ancora Lavrov, la NATO viola gli impegni e si sposta verso i confini russi. Le navi della Russia sono entrate nel porto greco di Pireo. Guatemala, l'ex dittatore Montt condannato a 80 anni di carcere. Cari amici, siamo giunti al termine della nostra programmazione del mattino. Vi invitiamo nel frattempo a visitare anche il nostro sito italian.irib.ir. Grazie ancora per averci seguito fin qui. A risentirci.